delle coordinate, chiama dicendo Gaia, che tu fai? Ya, va bene. Hola. Hola. Chiama Gaia, Franchetto. Non mi ascolti, sei in partenza da casa mia. Kappa, Santiago 9:15, Radio 5, cambio passo. Hola. vero, ma è un ritratto di lei, è peggio padre. Infatti abbandonano. Deve essere il contrario, non si devono abbandonare quando sono trattati bene. Va bene così, già va bene. Riprendi Gianni Capri 2. Ok, sentito a Puglia, si mandica a Rale Duppu. Gio Maria, mi ascolti? Ti sento, ti sento. 9:15 sei qua, 9:15 va benissimo. Pompa, pompa, va bene. Mi hai risentito dopo un secolo. A te ancora, vai. Non sei Giovanni, quella mano va messo di Gianni Dupiorù, mi ha convinto. Fra adesso, fra la storia durata, Mario Mario, fra 19 anni la cambio. Ok, abbiamo una cambiata la sera, Gio Maria, non più di tanto. E rimettiamo il tutto, Gianni Dupiorù, in due sensi. Sì, a Falchetto sto andando, ci permetti. Ah, io scelgo di Falchetto se si è all'ascolto. E poi me ne ritorno a dopo che non sto bene. Ho qualche cosa oggi, sono indisposto. Sto sedendo. Ok, anche io sono un po' preso di dolori, forse come un inchinato, però qualche strappo l'ho fatto a certe cose, perché la schiena mi fa male. Ho chiesto già, già mi sono mangiato che mi cade con questa bestia. A sa copertura solo un marco che a me non vuoi affare, riprendi, grazie. Almeno tu hai fatto qualche cosa e c'è il mal di schiena, io sono da mal di schiena, faccio un fianco che pare mangiare un punciotto, senza far nulla, sicuramente è un colpo d'aria, caspita, ma ti ha butto un tubetto di voltare. Poi ho preso di quelle bottiglie di antidolorifico, non è che sono molto, diciamo, concorde a prendere pastiglie, però mia moglie mi ha convinto, morite, poi c'era anche un po' di freschetto ieri sera, però piazzata piano piano scoperchiato, la salire di soffitta, poi non le patole pecore, affari o affari, oppure l'ho fatta salire assieme al cubo, è venuto mio figlio grande solo, quando ero sotto il tetto me l'ha passata, tipo l'ombrellone aperto e ci fu infilata, ma pesa un bene quell'antenne, e poi ti avevo modulato la terra, prima l'avevo parata alla perfezione, e già sembra che l'antenna vada bene, riprendi il tuo marito. E quanto l'hai messa alta? Non è che l'ha lasciata proprio a resente il tetto, no, per caso? Non è resente il tetto, Gio Maria, l'ho spostata, non è attaccata proprio all'altra grande, l'ho spostata e diciamo un paio di metri sarà, però bisogna alzare, siccome sto facendo asciugare bene le gambe, Gio Maria, dopo che le gambe sono asciugate bene, allora metterò l'altro spezzone del palo e alza ancora. Però le gambe ancora, capito, non sono entrate in pressione il cemento e quindi è meglio lasciare asciugare, no, se no se è troppo alta si mette a dondolare, quando è sopra un po' di giorni ci filo l'altro palo oppure metto i piranti. E infatti bisogna lasciare asciugare bene, almeno fanno più prese e registrano di più. E allora grazie a... Cosa mi racconti sbello oggi? Cosa hai combinato oggi? Campagna ieri? No, in casa, cosa in campagna? Sì, c'è potuto dolore, per carità. Pare che mi è passato in alto un trattore senza valuta. No, niente campagna. Sono goduto ad dolore, poi c'ho questo dolore, sarà come ne ho salito la lavatrice l'altro giorno, avanti ieri, magari ho fatto lo strappo e vado una biancata, cazzo, mettermi via le scintille, senza contare la schiena, vabbè, chi sei dall'ernia del disco, già lo so, però è più doloroso quello al fianco che la schiena. Infatti, bisogna stare attenti a questi sforzi, bisogna stare attenti perché a una certa età, sai com'è, questi sforzi così fanno male. E io, ieri ero tutto il giorno in campagna, oggi tutto il giorno in campagna, così che sono stanco morto, però, sempre facendo, però se lo vedo adesso è sempre a Piazza Italia. Adesso sono tranquillo e pacifico. Mi è rimasto solo il gradone e quello lo farò un altro giorno a tempo perso, ancora gli hai preso. così che anche io sono tutto a dolori, mai a farcelo là. Adesso in questa settimana faccio ferie, per cui mi riprendo. Ok, bene, c'era anche Falchetto, avanti Falchetto, riprenditela. No, Falchetto c'è solo Gianni che è passato a casa sua, non lo so per cosa. E anche così io devo fare il capretto, chi c'è la battrice, al momento non me ne sono accorto perché di domani un pochettino mi faceva male. A rimani mi va a chiamare un bel, e oggi è un po' diminuito ma già ce l'ho ancora. Ok, bisogna stare attenti a questi dolori. Sì, chi non c'ha di questi problemi dolori è Gianni, vero Gianni, tu non hai dolori, sei tranquillo, non ci vai a zappare, dai. Giornali, non è che ne ho oggi, ne ho tanti, e diciamo che io ce li ho sempre perché ho camminato molto in moto, Giornali. A zappare niente, già c'è stato ancora, c'è una campagna, un ettaro, ce l'ho in petto, c'è il petto di pigna, lì c'è stato ancora, che dice che rompe le montagne lui, c'ha 76 anni, e ha detto che ancora c'ha le montagne, e fa lui, niente, Giornali, io faccio tante altre cose, Giovanni, per esempio, da poco c'è un tirato sulla pompa del posto, tutte queste belle cose, no, li avevo da fare, però in campagna, Giovanni, posso passare solo la moto zappa, non mi dire di portare, che vale solo quelle cose. Ma io mi sono ordinato il robot adesso, ma a casa stessa lo comando, mi fa tutto già, così che questi giorni arriva e non te lo comando a casa, non faccio più niente, me lo guardo solo e basta, almeno non mi stanco. Se non me la faccio io non me la fa nessuno a me, così che piano piano me la sto facendo e non ci sono problemi. Un altro paio di sere e sono tranquillo. E se ne parla a settembre, ottobre. Avanti, grazie. Tu rimani sempre in caldo, che è meglio, riservato. Ehi, quando passi, vedi lì, più in avanti. Attento, capi2. Ciao. Come la faccio, in due lì la bozza, va a fare un mare, con il vento, che vedi, l'erba, tu vedi, tutta l'erba sembrano le onde del mare, capi. Capita, ti tuffi e ti perdi. Ok, mi stava chiamando qualche lui insieme ai sottofondi, grazie. Ma sai così, che non la portarono nel fatto, la portarono nel fatto, ok, però io volentieri vado spesso a dare una mano, perché quando c'è l'età che c'è, però ancora si vede che ancora è bello al dillo. E mi stava chiamando KP2 e in ascolto, avanti. Io senti, mi sembra che se io e mi stavano chiamando niente e Maria adesso devi darci da fare per spugnare, perché se no succede come l'anno scorso che un albero di olivo è partito ma non da colpa nostra, da colpa del vicino Gio Maria che non aveva invece spugliato, ci ha fatto danno di un albero. No, io tutto finito, è già due volte ci spugliato, così che ti puoi immaginare. Ieri e oggi ho fatto la seconda volta e per cui adesso è bello pulito, tranquillo e non lo tocco più, per cui sono a posto adesso. Qualche cosetta c'è sempre, non manca mai da fare, capito? Però piano piano, un'ora oggi, un'ora domani, quando c'è fa tempo bello che scendiamo, me la faccio. Non ci sono problemi, il più è stato fatto e per cui sono tranquillo. Bene, Meva, avanti, grazie. Oh, e allora sei uscita a fare sul posto oggi, così? No, negativo, sono occupato in garage a San Minileva e sono andata, basta, niente di niente. Mi ho guardato il televisore, ho aiutato a Rugi stamattina, ho preparato a mangiare, tutto quanto. moglie si è coricata, io ho guardato il televisore e abbiamo aggiato i ginocchi, ero un po' in ascolto, poi l'ho spento, mi ho guardato il televisore e nulla, mi ho guardato il giornale e niente. Ehi, non mi pongo più problemi in campagna, quando mi sento meglio, che fa anche più bella giornata, scendo, in due giorni la posso giuta, senza ammazzarmene nuda, piano piano, poi il resto che ce la fai già si fa con il tempo e piano piano già faccio tutto. Presa non nasce, nessuno mi comanda e nessuno mi cude. Eia ia, ma e io dovevo sempre per forza, capito? Dovevo sempre perché ho piazzato anche in quarantena, ma non mi funziona, grazie, non, cioè, non l'ho letto bene, quella non va bene per la televisione, capito? Sempre così, ma per i canali non va bene, quelle proprio satellitari non va bene, grazie. Gatta, arriva la sera, tutta la sera vera, gatta. Oggi abbiamo fatica a sentire parenti, provenienti, ma non mi sono riuscito. Veniva il segnale, stava tre secondi e spariva. Ma di tutta rimanere, non sono riuscito a farla funzionare. Io ho pensato, infatti, quello è a posto della parabola. Invece metto una parabola, metti quella e il segnale arriva, capito? Però per gli altri canali normali non dovrebbe far bene, non dovrebbe andare, perché UHF per cui non va. Vabbè, adesso gliele prendo e gliele piazzo, e gli sono io qui in terra domani. Gatta, ogni affutta gatta, se ne parenti non riesce a farlo, da voi faccio un messaggio che non andava bene. Perché ci vuole il decoder, se satellitare quella ci vuole, quell'antenna e anche il decoder, lo prendono insieme all'antenna. Oh no, cazzo, il decoder non te lo danno, no, è l'antenna solo che ti hanno dato, il decoder non ce n'era, c'era solo l'antenna e basta. Ma io pensavo diversamente, non sono stato attento a leggerla, capito? Siccome ho sentito qualcuno dicendo che dice ecco sono poco, quella dice va bene così e là, io l'ho presa e ieri sera l'ho piazzata ma non va bene. Dopo l'onestà ho visto che quella è satellitare, non è normale, capito? È satellitare, ecco, e non va bene. Così che non avevo buttato in terra, l'ho lasciata piazzata, però quando torno a scendere la butto in terra e ce ne metto altri due, capito? E ci metto nel normale, vedrai come le vedo bene. Perché c'è già l'antenna, però l'ho messa sopra l'albero d'olivo, come c'è appena il vento, allora comincia a essere disturbata e certe volte quando c'è vento la vedi male a momenti, capito? Ecco perché gliela voglio cambiare, a togliere dall'albero d'olivo, a metterla sul tubo innocentico piazzato, capito? Sì, ma con quell'antenna satellitare ci deve abbinare il decoder satellitare. Allora avere tutti i canali e non segnale, non tisci perché funziona bene. Capito? Ci devi prendere anche a parte il decoder. E più l'antenna è adatta per il satellitare, quella che hai preso tu. Quella è solo l'antenna, quella che hai preso tu. Ma devi prendere anche il decoder. Se no come ti vai a vedi? Signori, devi mettere il coso nuovo che è uscito piazzato. Io l'ho comprato a Natale da Conforama, l'ho pagato 80 euro. E lo attacchi lì all'antenna che c'hai, vedi, il digitale terrestre, vedi un sacco di canali, vedi. Io ho dovuto comprare quello perché con le antenne normali non andava. Digitale, quindi ho messo quello che era uscito nel mese di novembre e fa la grande, ma io ce l'ho il decoder satellitare, c'ho anche la parabola io in campagna, grazie, te l'ho detto, io il decoder ce l'ho, c'ho anche la parabola, già l'hai vista già, Così che io i canali, quelli quella cosa lo vedo, li vedo tutti, li vedo, capito? Però ho comprato un'antenna pensando che fosse un'antenna per i canali normali senza essere satellitari, capito? Invece no, quella è satellitare, non va bene per i canali normali, capito? Capito? Così che io l'ho piazzata e non funziona, non arriva il segnale, non ce n'è e basta. Poi se voglio attaccare alla parabola, attacco la parabola, d'accordo, c'è e mi vedo il canale, capito? Però ho i d'accordo, la parabola e le antenne normali, capito Grazia? Io dall'albero non voglio scendere perché sulla parabola tutti i canali non li vedi, capito? Certe volte c'è qualcuno qualificato e non lo vedi. E allora metti i canali normali, no? Io ho visto qua che questo qua vicino se l'ha piazzata con l'antenna che hai comprato tu con il decoder e mi ha detto vedi tutto e da me io ho l'antenna normale qua però ogni tanto quando va di vento pure se nel palio che si muove mi esce non segnale. Specialmente me lo fa quando c'è vento, però se non c'è vento, con la tenna di sveglia vengono tutti, ma ci fa di vento, un paio di volte, a Rai 1 me lo vado, prima non me lo vado, ora me lo vado, ma a Rai 1, quando c'è vento esce la scritta non segnale. Ma quello che stai dicendo tu dice che c'ha quella tenna che ho preso io, ma quello c'ha il decoder satellitare o io perché il decoder normale ce l'ho io, il digitale terrestre ce l'ho in campagna ugualmente, capito? Però se quella antenna non va bene il digitale terrestre, capito? Sulla parabola dovrebbe andare bene perché antenna satellitare, direttiva satellitare, capito? Cosa voglio dire io, grazie. Chiedi se quello c'è il decoder satellitare con quell'antenna, a vedere un po', così è una curiosità. Scusa un attimino, grazie. No, Gio Maria, il decoder dopo che è uscito, tu lo colleghi alla parabola che c'hai, a quella che c'hai, alla parabolica che c'hai piazzata, e riceve i canali del digitale terrestre anche, riceve tutti i canali del digitale terrestre, quello è l'ultimo decoder che va piazzato, perché con quel digitale terrestre con le antenne io qui non ricevevo, e ho comprato quello che è uscito a novembre, e quello c'ha anche i canali del digitale, c'ha un sacco di canali e non fanno purificati, insomma lì. Oh no, oh già, io le antenne ce le ho primo e secondo, no, quelle antenne, e le ho messe sopra l'albero dell'olivo, e i canali vedo bene, capito? Però siccome quando fa vento molto forte, allora muove il tronco dell'albero e l'antenna non è ferma, per cui mi disturba i canali. Esce tutta strisce e non si vede un corno. Quando invece non c'è vento e che calma, allora li vedo bene. Ed è uno. Più io ho il decoder digitale, capito? C'ho un decoder digitale con la parabola pure. Se voglio attaccare la parabola, attacco la parabola. Se voglio attaccare il digitale terrestre, attacco il digitale terrestre. Poi io lo voglio togliere dall'albero d'olivo, in modo che non si muovano più dove li sto mettendo con le antenne, capito? Però questa che ho preso adesso io non va bene per i canali normali, quello che voglio dire io, perché è un'antenna VHS su canale 26 e per cui è UHF e solo lì può funzionare, basta. Però Gio Maria, le puoi anche eliminare, ti compri un decoder, come ti sto dicendo io, e vedi tutto lì, digitale terrestre e tutto collegato alla parabola. Praticamente ti sto parlando di un nuovo decoder che è uscito e vedi tutti i canali che vedi anche con quello che c'hai. Però in più vedi anche digitale terrestre via SAT con la parabola e quindi non hai problemi dell'antenna del vento e di nulla. Ah, ecco, vabbè, è me. meglio saperlo qualcosa. Io non sapevo che c'era questo qua, che potevo usare sia per i canali normali sia per i satellitari. Ecco, quello vuol dire molto, eh. E vuol dire che ci penso per quel decode, dai. Perché ci vuole, c'è poco da fare, perché quando cammina c'è vento, me la distruggo, poi sono in un canale, sono sull'albero che è il punto più alto, però non va bene. Allora mettendo quello che hai detto tu, ecco, è tutto dalla parabola, per cui va benissimo, vuol dire che prenderò quello, dai. 80 euro io me li ho pagato, adesso magari avrà anche abbassato, e vedo tutti i canali possibili, e senza coprire quelli non li codificano, perché c'è anche un omaggio, c'è la scheda che non devi pagare nulla, che ti dura eternamente, e ho risolto il problema io dalla ricezione con quell'apparecchio lì, e va bene, con quello lì, 80 euro, ma adesso costa anche di meno, riprendi grazie a scusa del ping-pong. Io quella a lui gli stavo dicendo anche l'altra volta, se compra quel decoder lì che gli ho messo io, non c'è bisogno neanche dell'antenna perché collega tutto alla parabola. E infatti io quella parabola col decoder così me la voglio mettere, più compro il deviatore per fare le deviazioni anche agli altri TV che ho, e queste due antenne che ho normali le butto giù, capito? E lascio solo la parabola con quel decoder lì e metto i deviatori. Infatti io lo stesso l'ho messo, adesso devo comprare una, ero andato a comprare una televisione auto di quelle piatte, mia moglie non era la sera convinta di pigliare quello. Siamo venuti, entrati a casa, noi avevamo già prima di comprare il classico televisore, però poi gli ho spiegato che adesso i televisori sono quelli, adesso più là veniamo di fare un acquisto per piazzarlo anche in camera da letto il televisore, perché molte volte mi viene il sonno lì in cucina, capito, lo so, cena mentre non ho attacchi di sonno e mi deve scuotere a svegliarmi, questo succede in inverno ed estate già lo succede. Quindi poi farò come stai dicendo tu, che non ci ha fatto il capo con il deviatore, hai capito, perché il decodere grazie è piccolissimo, io lo prendo, non faccio altro che trasferire, hai capito, dove c'è il televisore, la cassata ed è andando, e ho risolto i problemi, e la spesa notevole che avevo fatto in quelle antenne, perché mio marito quelle antenne del digitale una barca di soldi, poi per non vedere nulla, perché c'era appena del vento, era disturbato e noi anche al nostro QTH di paese non siamo completi da segnare e tutte queste belle cose, ci ho preso un sacco di soldi da posare e non avevo risolto nulla, con questo ho risolto la situazione, ripeti. Io i canali li vedo tutti bene, guarda, prima essere digitale, quando era analogico, io li vedevo tutti perfettamente, anche se c'era temporale in giro, no, la televisione funzionava sempre bene, invece da quando è entrato in digitale, grazie a queste antenne, anche se c'è il decodere terrestre, si vede male, perché quando lo muove, basta muovere il vento, l'antenna, ecco, sono delle strisce, certe volte non vedi bene il quadro. Ecco, tutto lì, ecco perché io la volevo cambiare, però una volta che tu mi hai detto questo, che c'è questo decodere che piglia sia i satellitari che quelli terrestri, basta, ci va, ci compri quel decodere, sono a posto, capito? Ho sbagliato il mio marito che sta cannellato dalla parabola e attacchi quello e sei a posto, poi lo accendi e si canalizza, c'è la scheda devi fare una telefonata e devi dirmi che ho comprato questo decoder e te lo subito loro te lo attivano e non paghi nulla, mio marito. E capito, le stacchi l'albero e metti quello e risolvi il problema, c'è questo RaiSat Premium, mio marito, che ci sono figli uno presso l'altro di tutti i tipi di infatti conviene comprare quello, ma ci sono anche a città mercato, costano anche di meno adesso, perché io li ho visti da poco, costano 60 euro, visto, fino a video di chi si muore, glielo chiedi a quello che c'è lì e vedrai che ti risolvi quel problema. E non hai bisogno di antenne contro antenne. Beh, Gianni mi stava dicendo, dice che devo fare una telefonata per attivarlo. Ma allora è quello un pagamento o già? Se mi dice così, perché su delle cose che ho io qua ne ho due delle cose, uno in cucina, uno in camera mia, della Philips, però sono ormai da parecchi anni che ce l'ho questo qua, perché io c'avevo anche la parabola motorizzata da 120 qua, che prendevo tutti i satelliti che esistevano, Adesso l'ho buttata fuori perché non mi piaceva, perché non c'era più nessuno, perché era analogico, l'ho regalato, Ho regalato il decoder, ho regalato la parabola con motore e tutto quanto a Manuele. Ho messo quello normale. Però c'è in campagna io, infatti voglio vedere ancora se come stai dicendo tu. Se la pagamento non le metto, ma nemmeno per sogni, allora mi conviene a mettere quelli a pelle normale, capito? Perché prendendo quella cosa che tu hai detto, quindi tu paghi per attivarlo, se no non te ne attivano già. No, non ci parla niente, Gio Mori, questa roba è per il dubbio, se entri la scheda, i carro di smarrimento della scheda, per non permettere a niente di attivare la scheda, non ci paga niente, Gio Mori. Non ci paga niente, perché io su queste cose che ho, c'è la scheda in bianco c'è dentro, ecco, senza la scheda non funziona, metto quella scheda in bianco e non ho telefonato a nessuno. Solo che prima avevo per esempio 1000 rotti canali, adesso invece partono da 101 perché quelli che non ci sono della Sky, capito? Così che me ne ha fregato un bel di canale e parto da 101 invece partire da 1, capito? Però i canali vedo sesto, prima, secondo, terzo, prima invece vederlo a canale 1, lo vedo da 101, lo vedo, capito? Qua anche qua. In campagna invece in campagna è diverso, quello lo vedo dall'1 sesto direttamente, capito? Sulla parabola. Però sai cos'è? Che quelle le cose che ho, satellitare, quello che c'è in campagna, se per esempio primo, secondo, terzo, quarto, o il quarto, o il quinto, te lo quantificano e certe volte non c'è niente. Però gli altri canali li vedi, oppure ti codificano il 4 e magari 5 li vedi, oppure viceversa, cosa voglio dire, capito mi hai già? Ecco perché adesso io voglio vedere questo decoder nuovo che tu hai detto, domani ci vado e mi trovo bene com'è la situazione, capito? Mille canali, ne vedi, c'è anche più c'è la radio, hai capito? Tu ho una conformata così come io, che esiste, che ti è scritto, conta sicuramente qualcosa in meno di come l'ho comprato io, non devi pagare nulla, c'è anche scritto sul pacco dicendo Gio Maria, ce l'ho anche io nei digitali qua per Rissi, ma quando voglio la carico e quando non voglio non la carico. Quando la carico, per esempio, ultimamente c'era quella offerta, 6 mesi 36 euro era, l'avevo fatta, avevo pagato 36 euro, ho telefonato e mi hanno attivato i canali premium, cinema, sport, tutti quei canali lì, una volta che mi è scaduta non l'ho riattivata quel canale, ce li ho sempre, però se non sono attivati, capito? Però tutti gli altri canali li vedo, non è che non li vedo, solo se io voglio vedere quei film, quel programma che tutti i film premium, devo ricaricare la scheda, se voglio me la ricarico solo per quel programma del film e il programma di sport. E si paga 20 euro al mese, però a me non me la appunti e non le ho ricaricate, però tutti gli altri canali li vedo, vedo Iris, Cielo e un sacco di altri canali, capito? È una scheda già preparata quella. Quella lì non lo so com'è adesso, come lo stanno facendo. Però quelle che c'ho io qua, se voglio vado al tabacchino, pago, telefono e mi mettono in funzione, accendo il televisore e vedo quei programmi che ho pagato. Però quando mi scade, adesso questa di cucina mi è scaduta, non l'ho rinnovata e quei canali là li vedo lo stesso, capito? Però quelli che ho pagato ci sono i canali ma non vedi niente perché è finito il periodo, i 6 mesi, capito? Adesso io se la voglio rivedere quei canali per altri 6 mesi devo ripagare. Ma altrimenti non mi interessa nulla, lo faccio così e vedo tutti gli altri canali. Ci vado a vedere un po' com'è la situazione, tu l'hai presa a Golforama, no? Ah, tanto ci saranno da tutte le parti, se c'è Golforama c'è anche a Città Mercato e dappertutto oggi ci saranno, no? Perché sono cose che vanno dappertutto. Oppure da Grazie, ma siccome anche sono anche un cliente di Grazie, allora ci vado e mi informo anche prima lì e vediamo un po' com'è la situazione. Perché se, come stai dicendo tu, io con le antenne normali che sono le butto in terra e attacco la parabola direttamente quel decoder, capito? E sono più tranquillo, almeno non si muove e non è disturbato, li vedo sempre bene, capito? Insomma, io forse non sbagliare, io ero andato prima a Città Mercato, non ce l'avevo, ma in Conforama ce l'avevo. Perché sono in giro da una parte all'altra, o si nascondono, si mettono a chiacchierare con degli altri amici e magari il cliente e ne agita cercando e non li trova più. E senz'altro mi informerò, perché è una cosa che mi interessa, tutto lì. Ok. Oh, li vedo, io magari invece mettere l'altra antenna, attacco la parabola, li vedo. Solo che capita così, no? Che qualche canale qualificato io non li vedo, è quello il punto. Però di solito il canale 4 o il canale 5 che qualificano, un canale solo, gli altri, primo, secondo, terzo, quarto e quinto, Italia 1, Italia 7, la 7, ripeto sull'apparato, però entro questi 7 canali c'è qualcuno che lo qualifica ogni tanto, non sempre, ogni tanto, o il 4 o il 5, capito? E anche noi niente, non è qualificato neanche uno di quelli, ci sono sempre i primi, ci sono tutto la 7, tra i 7 premium, tra i 7 cinema, anche da cinema uno ha preso all'altro, cioè, quindi uno e mette l'altro, è bellissimo, tu da 24 ore su 24 sempre facendo il cinema, di Top Gun, di tutti quelli di primi degli anni 60, molto bello. Molte volte mi siedo lì nel riparo, ci passo anche 3 ore. Ok, ti ringraziamo. Figlia, e tu vai direttamente a Conforama, che c'hanno anche preso i milioni, e poi è vero quel fatto che tu ci hanno agisci, ti dici un attimo e da voi fare la circolazione. Vieni una volta a prese e me ne sono andato. Guardi un biciclito a De Vigo, ma sta venendo o sta venendo? Mi vengo subito, torno a andare a chissà, a detenere, che cazzo ero che devo brigare. Allora, mo la potuta me ne andavo, e andavo agli altri posti. E così è, grazie a io, molte volte capitavo anche con la 50 lì e andavamo dopo il servizio la sera, però io aspetto quello, darmi spiegazioni, e che quello può arrivare a farmi la cena a casa alle 10 di sera, non va bene perché si mette a chiacchierare con quello, oppure trova il tipo che respira la colla e non gli entra in testa e la spiega mille volte. Allora, come hai detto tu, molte volte da capo in piedi e me ne andavo più di una volta, e comunque per quanto riguarda il mio marito che l'ho comprato l'apparecchio è validissimo, e se lo compri rimarrei contento, lo curi direttamente alla come si chiama, che tu alla parabola, riprendi. E comunque quando avevo una motorizzata che era analogico non avevo problema io, Catta, ma allora il canale che volevo mi cercavo, Catta, era tutta memorizzata perfettamente, Catta, ma mi sembra che c'aveva, non so se erano 15 o 20 satelliti, non li prendevo. Di quanti? Uno per uno, caspita, proprio quei satelliti, e abbassava il tracolando, e partiva, si fermava, ma sai quanti canali c'erano, e poi vedevo tutte le nazioni, capito? Allora era analogico, non era a pagamento, adesso sono quasi digitali e sono tutte a pagamento, ne hanno i piedi quasi niente, sono pochi i canali che ci sono, capito? Però prima, analogico, erano pieni, c'erano 1000 in quello che avevo io, e 1000 canali, funzionavano in tutti quanti, ti puoi immaginare, tutte le lingue che volevi. Invece dopo hanno cominciato a togliere e hanno messo il digitale, per cui io, perché l'ho tolta quella parabola da 120? Per quel motivo, perché ormai i canali ce n'erano pochi e non mandava più, e l'ho regalata. E ho messo la normale, che la parabola potevo lasciare quella e cambiare solo il illuminatore e basta. Invece ne ho tolto tutto io e ho messo tutto nuovo. Adesso ho quelli normali, ne ho due parabole qua, una in campagna. Capito? Però questi adesso sono digitali, sono. Però mi fa questo lavoro, capito? O attacco le antenne normali in casa o metto la parabola, quello che voglio, capito? Per cui i canali non me ne mancano a me qua, invece in campagna capita questo particolare. Sai, c'è vento, se metto l'antenna normale mi muovo l'antenna digitale e mi disturba la televisione. Certo che se metto una parabola non me la disturba, perché quelle direttamente, che lì vedi canali che non finiscono mai. Anche se c'è temporale, cammina perfettamente. Capito? Adesso vediamo un po' che se c'è come ha detto tu queste cose, lo prendo e ne butto tutte quelle antenne, attacco direttamente alla parabola e sono tranquillo. Ecco, farò senz'altro così. Almeno non sono queste antenne a rompere scatole. Ok, riprendi già. Sì, io ho mani alla grande, vai con quelle, poi mi darei la risposta. L'unica cosa che devo fare è che ho tutto Giovanni in casa, qualche ancora di strumenti, non c'ho quello strumentino di tarare quando di tarare quell'antenna, che cosa dice sentivo, mia moglie, adesso perché non te lo compri, c'è il tutto tra di quella, perché molte volte che la devo orizzontare, devo stare al vento, a tutti, ci vedi, quindi con lo strumento. Ok, gira la roba, una pentola, ragazzi, se no si brucia tutto, grazie a te, raccomando, girala bene, e occhio a stracuocerla quella roba, e okay. Ma io ho fatto la televisione, ripeto, non ce l'ho, quasi in tutte le camere ce l'ho, così che pure in campagna, ce ne ho due, tipo mangiare una grande e una piccola. Sì, ripeto, anche la parabola c'è in campagna, per cui non ho... Diciamo che per non stare sempre agganciato alla parabola avevo messo un'antenna normale, prima e secondo, però mi la disturba il vento quando muovo, mentre con la parabola non la muovo, capito? Ecco, tutto lì. Però se tutta in una è meglio ancora, perché adesso in campagna c'è quello satellitare, e il decoro satellitare e il decoro digitale terrestre sono due, quindi che se fa tutto uno è meglio di averne due attaccati, non ti sembra? E io infatti ho parecchio sia il digitale terrestre, ciò e satellitare, l'altro ci sono messi in un cassetto e rimarranno lì a meno che non gli piace da qualche altra parte, dove, perché questo fa tutto lui, io parecchio tutto questo qui. Però ho detto non buttarcelo, hai capito? Io diciamo non ci butterei nulla di queste cose. E niente, ho con questo qui, ma tutto lui io risolvo alla grande. Mi ha regalato proprio un alimentatore, aveva, chissà cosa aveva comprato, non li abbia di 3 ampere, di nuovo nuovo, e me l'ho portato a casa, me l'ho portato nuovo di pacca, ma chissà cosa aveva comprato, non glielo chiedo, non glielo voglio chiedere. Ok, ancora io, per esempio, una volta ero abbonato alla Stream, ti ricordi che c'era la Stream? Una volta ero abbonato alla Stream, però io non... era gratis per un anno. Avevo fatto la domanda e già me l'avevano dato, mi avevano agganciato, avevo telefonato e mi hanno agganciato. Dopo la Stream ha fallito e io dovevo ritornare indietro, sono andato a tornare indietro e non l'hanno voluto, cioè cosa ne facciamo? Se lo tenga lì, infatti ce l'ho in magazzino, quel decovere, con la scheda, e che l'ha toccato più, mi sembra che sia 7-8 anni che è fermo dentro il magazzino, ancora quello c'ho quello della Stream, già, e Naggio di Gozio, lui va a caricare, grazie. E quello analogico l'avevo dato rispetto a Manuele e non ha piazzato nemmeno lui, c'ha tutto altro da una parte. Certo, quello costava allora, l'avevo preso la grassa, io e Vittorio una rossa, avevo preso due di quelle. Oh, 3 milioni e rotti l'avevano pagato quelle decore e la parabola con motore. 3 milioni e rotti già. Che 3 milioni e rotti io e 3 milioni e rotti Vittorio Luna Rossa, ti puoi immaginare, però allora era analogico, c'erano tutti i canali che volevano, capito? E allora c'erano i canali gratis anche di quei canali un po' spinti allora, che era tutto gratis, adesso si paga tutto però. Già lo so, Gio Maria, allora era altri tempi, adesso anche gli altri ne spieghiamo, amici, fanno pagare, sono venuti qua. anche qua mi hanno telefonato a me, se volevo farlo. Ah, però no, io mi lascio quello che ho, no, mi lascio bene così. Cioè, ma risparmio, no, mi interessa, a me mi sta bene così, boh. Cioè, in campagna che qua, capito? Niente. E mia sorella l'aveva fatto col contratto, però pago lo stesso, mi sembra, No, non credo di paghi di meno, Mi sembra che paghi ugualmente. Oh, boh, mi sembra tutto un giro di soldi che sta a perdere una massa di imbroglione, cazzo. Sì, altri due! Sono ritornati il contratto come la prima, mica, diciamo che quel contratto lì lo annullo, mi rimango come lo primo di domenica, arrivo alla luce, perché non so questa roba. Si paga da 40 euro fino a 300 kW al mese, però io mi arrivo nei 3 mesi con 120 euro, però tu 300 euro qui li consuma, tra l'impiegato almeno il periodo d'inverno, perché c'è qui il scaldabagno sempre attaccato, la stufa, la lampadina di cucina che è sempre accesa, perché dopo la cucina non ci sono finestre, la lampadina è da 100 e con la fotografia, però con l'altro mi trovavo meglio, forse adesso vediamo la cosa arriva, e perché non mi convince Gio Marino. Capito? Eccomi. Ah, ho chiuso quel contratto lì, perché la ricavere è arrivato 1.200.000 lire di bolletta. Ma io già l'ho fatto il contratto, però che contratto hai fatto con la Surgimi? E quello dell'Eni, l'altra compagnia dell'Eni, grazie. Surgimi si chiama, e l'ho fatta anche io, e mi arrivano presso a poco, quasi come quelle che mi arrivavano dell'Eni. E a me 2 mesi mi arrivi da 320 lo stesso, però l'ho consumata, perché l'ho consumata io con la corrente, non è che non l'ho consumata, E io, perché il contatore parla chiaro, però non è ogni 3 mesi che arriva la bolletta, grazie. No, quando si fa il contratto glielo devi dire tu, ogni 2 mesi a me mi arriva, perché io glielo ho detto, a me mi piace come l'Ener ogni 2 mesi mi arrivava, e all'incirca mi arrivava come questa, c'è poca differenza, già c'è un po' la differenza da l'Ener a questa, però l'ultima che io ho pagato mi è arrivata così, perché in quel periodo in effetti la consumata la luce, perché in quel periodo poi ogni sera stavamo mangiando per 2 mesi e più in salone, e lì c'è il lampadario con 6 lampadine da 60, e tu conta 2 mesi qua alle 5:30 le 6 eravamo lì, perché c'è la stufa, c'è il televisore grande, e in effetti l'ho consumata, non è che non l'ho consumata. Adesso che incomincia il periodo bello mangio qua in veranda e la luce la accendi più tardi, capito? Però se faccio i calcoli già l'ho consumata, non è che l'ho consumata, però qualcosa di meno già mi arriva dell'Enel. È giusto, anche io ho controllato, se esci fuori dalle 300 kW, se no è 40 euro se ti mantieni sui 300 kW al mese, se esci fuori anche se con stufe, c'era la attaccata qui in inverno, c'era il lineare a valvole, c'era lo scaldabagno quasi sempre attaccato, lampadine, dove c'era la camera di mio figlio, l'accento, computer, e quindi evidentemente la consumate, capito? Io no, assolutamente, non ci avrei fatto mai quasi a una cifra del genere. Ma qua già siamo in due qua, però lo scaldabagno è sempre acceso. La televisione, li accendo, ma è. E Massimo sarà arrivo a 200 euro, non di più, Massimo, prima però, adesso siamo noi due soli e senz'altro consumiamo anche di meno, capito? Parlo più in campagna che qua io, capito? Ti puoi immaginare. Però quando si consuma, in estate in campagna, chiaro, il motore lo faccio funzionare, certo. E appena anche sul vascone con mezza torrata, ti puoi immaginare, certo, e vabbè, c'ho la 380 lì, c'ho. E poi consumo dalla 380, ce l'ho ricavato la 220, per cui c'ho anche tutta l'illuminazione. E io in estate quando sono lì, tutto viene, no? La sera rimane tutta sempre acceso. E la televisione c'è sempre, accendo il faro quando devo cucinare, nel barciere. E insomma, ripeto, la consumo, però la consumo più in campagna che qua. Poi a quella cifra del genere, ripeto, non ci arriviamo, perché è chiaro, siamo di meno noi, invece Graziano sono in più, è chiaro che lì certo, la corrente la consumano. Infatti, noi in campagna ci abbiamo il gruppo elettrogeno, lì non ci sono tali che possono gas, ma va fatto anche una caletta in legno, giusto così, ci mandiamo dentro, giusto per quando piove, ma se fosse proprio se no se ne entra dentro. Consuma, io poi qua c'ho il frigorifero grande e sotto frisa a cassetti, poi c'ho un altro frisa a cassetti, poi c'ho il boffetto, poi c'è lo scaldabagno che è sempre acceso, poi sono tutte femmine in casa, qua io maschi non le ho, e le femmine che vanno in doccia la sera, doccia romanzana e doccia la sera, dunque capriù. Si consuma. Sì, grazie a tutto il consumo, ogni cosa. Però io e a mia moglie se siamo più attenti anche con la luce, di cambiare anche che ho queste lampadine a basso consumo, se queste cose bisogna praticamente, dunque il consumo lo vedi anche se ci siamo attenti a accendere la luce magari di giorno, capito? La consumi l'ho venuta di qua e la lavatrice non la conti, oggi da domenica l'ha attaccata a due buchi, ieri l'ha attaccata tre volte, perché ce n'è una che gioca a calcetto e guarda ogni sera vanno fuori a fare incontri di calcetto, dunque c'è con lo zaino e se ne torna con lo zaino con tutta la roba da lavare e dunque la lavatrice la viene subito e ogni giorno a cambiare le asciugamani del bagno e poi mia moglie un giorno sì, un giorno no cambia le lenzuola e sempre così eppure anche la lavatrice già consuma e molte volte l'accendiamo la notte perché dice consuma di meno ma l'accendi la notte e non deve una coccare così lei roba la lava e c'è sempre lì e infatti anche quella c'è e diciamo che lui anche io non è che mi sporco molto la sera hai capito tirare tiriamo pochissimo perché la roba come me la leggo io la tengo sempre piegata la camicia la metto e quindi molte volte che sono la sera lo si usa anche poco perché il dosso tutte le volte che stende la roba, quella che deve stirare la piega la mette nel cestino, quella che non deve stirare la piega la rimette nei cassetti. Però sembra così, ma già ce ne sono le magliette, per esempio le sfida, le tovaglie una passata di ferro gliela dà, le federe dei cuscini li stira, le lenzuola no, le piega bene. Però già ne esce pure di roba, una volta alla settimana qua sfida. E per dire, io avevo preso quel ferro d'asilo che consuma poco, quello a vapore, con la caldaia, e fa anche prima con quella a tirare e tutto, però sempre ho quello o quell'altro, la corrente la consuma in morumattesi. Poi qui ognuno ha il televisore anche in cameretta, se a me non mi piace quello, a me lo guardo in cucina, mia moglie se ci mangia, se ci corta se lo guarda in camera da letto, mia figlia in cameretta, c'è l'altra se non mi piace il programma se ne va al salone, e dunque sembra così eppure un po' qui, un po' lì e consumi. Infatti hai anche quello c'è la sera, tutto lì, bene, la 50 mi ha chiamato per diciamo per cenare, che si dice così perché abitudine non è che ti carico molto stanotte, roba leggera, hai capito, perché la notte ce n'ho poco. Per il momento vi saluto, faccio qui il rettifico lì, però l'apparecchio l'ho già acceso. Ciao, buona carica a te, al cuore familiare, buon proseguimento di serata, alle prossimine, ciao. Ciao, grazie, ciao. Beh, io che riprendo io allora, ciao già, ci sentiamo alle prossime. Buona serata, a risentire. Grazie anche io, ne approfitto, dai. Chiuso, dopo sarà commosso, per cui ne approfitto, eventualmente se coincide domani. Ciao, grazie. Grazie anche a Cratina, buon presumento, saluti in casa e buona cena. Chiudo, ciao e buonasera anche agli ascoltoni. Papà, ciao, ricandate al centro il tutto, ciao Gio Maria, alle prossime, ciao. Ok, ciao. Allora, Vabbè Gianni, Gianni doppio ru. Gianni doppio ru. Attento. Buonio.